Prefazione di Monsignor Javier Echevarría. Scrivo con grande gioia queste righe per l'edizione dell'omelia Amare il mondo appassionatamente, in occasione del 40° anniversario del giorno in cui fu pronunciata da San José María Escrivá l'8 ottobre del 1967. Già in altre occasioni il fondatore dell'Opus Dei si era incontrato con gruppi molto numerosi nel campus universitario di Pamplona. In concreto, nel 1960, quando lo Studium Generale fu eretto in università, con la partecipazione di vescovi spagnoli e di altre autorità ecclesiastiche, fra cui il nunzio di Sua Santità Giovanni XXIII e civili, e nel 1964 per la prima assemblea generale dell'Associazione Amici dell'Università appena costituita. Alla seconda assemblea, nel 1967, avrebbero partecipato migliaia di persone provenienti da varie nazioni europee. San José María pensò che l'assemblea fosse il momento opportuno per esporre in profondità l'insegnamento sul ruolo dei fedeli laici nella Chiesa e nella società civile. Si attendeva la partecipazione di un pubblico molto vario, si prevedeva un'ampia copertura mediatica e le sue parole potevano avere una grande risonanza nell'opinione pubblica. Il fondatore dell'Opus Dei preparò questa omelia con particolare attenzione. La rivide molte volte, affinando le idee e migliorando lo stile. Durante l'estate volle che fosse letta previamente a un piccolo gruppo di persone. Seguiva la lettura con grande attenzione, come se si trattasse del testo di un altro, desideroso di arrivare al cuore e alla mente di coloro che lo avrebbero ascoltato a Pamplona. Questo testo, profondamente permeato degli insegnamenti del Concilio Vaticano II e dello spirito dell'Opus Dei, fu considerato da molti commentatori come la Magna Carta dei laici. In questi 40 anni si è scritto molto sui fedeli laici, sul loro ruolo nella società civile e nella società ecclesiale. L'omelia di San José María non solo conserva la freschezza e la forza originali, ma appare più attuale che mai. Il fondatore dell'Opus Dei non si limita infatti a enunciare alcune affermazioni più o meno condivisibili, ma presenta il frutto di un'elaborazione teologico-spirituale fondata sul magistero della Chiesa e sulla sua esperienza pluridecennale, dato che egli diffondeva e metteva in pratica questa dottrina dal 2 ottobre 1928, quando l'Opus Dei fu fondata. Rispetto al 1967, forse adesso l'ambiente civile ed ecclesiale risulterà più preparato ad accogliere il contenuto di questa omelia e a comprenderne più a fondo le conseguenze pratiche. Il lettore pensi, per esempio, ai paragrafi sull'unità di vita del cristiano o ai segni di una vera mentalità laicale che qui si trovano. Anche in questo scritto, come in altri campi, San José María si è dimostrato un anticipatore. Chiedo a Dio nostro Signore, per intercessione della Santissima Vergine, che la conoscenza di questo testo porti molti cristiani a mettersi seriamente di fronte alla propria chiamata alla santità nelle circostanze ordinarie, accogliendo così gli insegnamenti di San José María. Javier Echevarría, prelato dell'Opus Dei, Roma, 8 ottobre 2007. Acabáis de escuchar... Avete orora ascoltato la lettura solenne dei due brani della Sacra Scrittura corrispondenti alla messa della domenica 21esima dopo Pentecoste. Il fatto di aver ascoltato la parola di Dio vi colloca di già nell'ambito in cui vogliono situarsi le parole che ora vi rivolgo. Parole di sacerdote, pronunciate di fronte a una grande famiglia di figli di Dio nella sua Santa Chiesa. Parole, quindi, che vogliono essere soprannaturali e proclamare la grandezza di Dio e le sue misericordie verso gli uomini. Parole che vi preparino a questa impressionante Eucaristia che oggi celebriamo nel campus dell'Università di Navarra. Pregoneras de la grandeza de Dios y de sus misericordias con los hombres. Palabras que os dispongan a la impresionante Eucaristía que hoy celebramos en el campus de la Universidad de Navarra. Considerad unos instantes. Considerate un momento la circostanza a cui accennavo. Celebriamo la Sacra Eucaristia, il sacrificio sacramentale del corpo e del sangue del Signore, il mistero di fede che riassume in sé tutti i misteri del cristianesimo. Celebriamo, pertanto, l'azione più sacra e trascendente che noi uomini possiamo realizzare per grazia di Dio in questa vita. Unirci in comunione con il corpo e il sangue del Signore viene a essere per noi, in un certo senso, come scioglierci dai legami di terra e di tempo per trovarci di già con Dio nel cielo, là dove Cristo stesso asciugherà le lacrime dei nostri occhi e dove non ci sarà morte, né pianto, né gemiti di fatica, perché il mondo vecchio sarà ormai passato. Per stare già con Dio nel cielo, donde Cristo mismo enjugará las lágrimas de nuestros ojos y donde no habrá muerte, ni llanto, ni gritos de fatiga, porque el mundo viejo ya habrá terminado. Esta verdad tan consoladora y profunda. Questa verità così consolante e profonda, questo significato escatologico dell'Eucaristia, come usano dire i teologi, potrebbe però essere frainteso, e lo è stato, ogni qualvolta si è voluto presentare la vita cristiana come qualcosa di esclusivamente spirituale, spiritualista voglio dire, riservato a gente pura, eccezionale, che non si mescola alle cose spregevoli di questo mondo, o tutt'al più le tollera come una cosa a cui lo spirito è necessariamente giusto apposto finché viviamo sulla terra. O a lo más que las toleran como algo necesariamente giusto apposto al espíritu mientras vivimos aquí. Cuando se ven las cosas de este modo. Quando si ha questa visione delle cose, il Tempio diventa il luogo per antonomasia della vita cristiana. Essere cristiano vuol dire allora andare nel Tempio, partecipare alle cerimonie sacre, abbarbicarsi a una sociologia ecclesiastica in una specie di mondo a parte che si spaccia per l'anticamera del cielo, mentre il mondo comune va per la sua strada. La dottrina del cristianesimo, la vita della grazia, passerebbero dunque appena sfiorando l'agitato procedere della storia umana senza entrare in contatto con esso. La dottrina del cristianesimo, la vita della grazia, passerían pues come rozando el ajetreado avanzar della storia umana, pero sin encontrarse con él. In questa mattina di ottobre, nel momento in cui ci disponiamo ad addentrarci nel memoriale della Pasqua del Signore, rispondiamo con un semplice no a questa visione distorta del cristianesimo. Pensate un momento alla cornice della nostra Eucaristia, della nostra azione di grazie. Ci troviamo in un tempio singolare. Si potrebbe dire che la navata è il campus universitario, la pala d'altare è la biblioteca dell'università. Attorno ci sono le gru per la costruzione dei nuovi edifici e sopra di noi il cielo di Navarra. Il retablo, la biblioteca dell'università. Allà la macchinaria che levanta nuovi edifici. Y arriba il cielo di Navarra. Non è forse vero che questo sguardo a ciò che abbiamo intorno vi conferma con un'immagine viva e indimenticabile che è la vita ordinaria il vero luogo della vostra esistenza cristiana? Figli miei, lì dove sono gli uomini vostri fratelli, lì dove sono le vostre aspirazioni, il vostro lavoro, lì dove si riversa il vostro amore, quello è il posto del vostro quotidiano incontro con Cristo. È in mezzo alle cose più materiali della terra che ci dobbiamo santificare, servendo Dio e tutti gli uomini. È in mezzo alle cose più materiali della terra dove dobbiamo santificarci, servendo a Dio e a tutti gli uomini. L'ho insegnato costantemente. Ho insegnato incessantemente, con parole della Sacra Scrittura, che il mondo non è cattivo, perché è uscito dalle mani di Dio, perché è creatura sua, perché Yahvé lo guardò e vide che era buono. Siamo noi uomini a renderlo cattivo e brutto con i nostri peccati e le nostre infedeltà. Siatene pur certi, figli miei, qualsiasi specie di evasione dalle realtà oneste di tutti i giorni significa per voi, uomini e donne del mondo, il contrario della volontà di Dio. È per voi, hombres y mujeres del mundo, cosa opuesta alla volontà di Dio. Por el contrario, dovete invece comprendere adesso, con una luce tutta nuova, che Dio vi chiama per servirlo nei compiti e attraverso i compiti civili, materiali, temporali della vita umana. In un laboratorio, nella sala operatoria di un ospedale, in caserma, dalla cattedra di un'università, in fabbrica, in officina, sui campi, nel focolare domestico e in tutto lo sconfinato panorama del lavoro, Dio ci aspetta ogni giorno. Sappiatelo bene, c'è un qualcosa di santo, di divino, nascosto nelle situazioni più comuni, qualcosa che tocca a ognuno di voi scoprire. Sapetelo bene, hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes que toca a cada uno de vosotros descubrir. Yo solía decir a quegli universitari e a quegli operai che mi seguivano verso gli anni 30, io solevo dire che dovevano saper materializzare la vita spirituale. Volevo allontanarli in questo modo dalla tentazione così frequente allora e anche oggi di condurre una specie di doppia vita. Da una parte la vita interiore, la vita di relazione con Dio, dall'altra, come una cosa diversa e separata, la vita familiare, professionale e sociale, fatta tutta di piccole realtà terrene. E di altra, distinta e separata, la vita familiare, professionale e sociale, plena de pequeñas realidades terrenas. Que no, hijos míos. No, figli miei. Non ci può essere una doppia vita. Non possiamo essere come degli schizofrenici se vogliamo essere cristiani. Vi è una sola vita, fatta di carne e di spirito, ed è questa che deve essere, nell'anima e nel corpo, santa e piena di Dio. Questo Dio invisibile lo troviamo nelle cose più visibili e materiali. A ese Dios invisible lo encontramos en las cosas más visibles y materiales. No hay otro camino, hijos míos. Non vi è altra strada, figli miei. O sappiamo trovare il Signore nella nostra vita ordinaria o non lo troveremo mai. Per questo vi posso dire che la nostra epoca ha bisogno di restituire alla materia e alle situazioni che sembrano più comuni il loro nobile senso originario, metterle al servizio del regno di Dio, spiritualizzarle, facendone mezzo e occasione del nostro incontro continuo con Gesù Cristo. Spiritualizzarlas, haciendo de ellas medio y ocasión de nuestro encuentro continuo con Jesucristo. L'autentico sentido cristiano. Il senso cristiano autentico, che professa la risurrezione della carne, si è sempre opposto, come è logico, alla disincarnazione, senza tema di essere tacciato di materialismo. È consentito, pertanto, parlare di un materialismo cristiano che si oppone audacemente ai materialismi chiusi allo spirito. Che si oppone audacemente a los materialismos cerrados al espíritu. ¿Qué son los sacramentos? Che cosa sono i sacramenti? Orme dell'incarnazione del Verbo, come dissero gli antichi, se non la manifestazione più evidente di questa strada che Dio ha scelto per santificarci e condurci al cielo. Non vedete che ogni sacramento è l'amore di Dio, con tutta la sua forza creatrice e redentrice, che si dona a noi servendosi di mezzi materiali. Che cos'è questa Eucaristia ormai imminente, se non il corpo e il sangue adorabili del nostro Redentore, che si offre a noi attraverso l'umile materia di questo mondo, vino e pane, attraverso gli elementi della natura coltivati dall'uomo, come l'ultimo concilio ecumenico ha voluto ricordare. Vino e pan, attraverso gli elementi della naturaleza coltivati per l'uomo, come l'ultimo concilio ecumenico ha querido ricordare. Se comprende, hijos, si comprende bene, figli miei, perché l'Apostolo poteva scrivere: tutte le cose sono vostre, voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Si tratta di un moto ascensionale che lo Spirito Santo, diffuso nei nostri cuori, vuole provocare nel mondo, dalla terra fino alla gloria del Signore. E perché non ci fosse dubbio che in questo moto si includeva pure ciò che sembra più prosaico, San Paolo scriveva anche: sia che mangiate, sia che beviate, fate tutto per la gloria di Dio. Che in ese movimento se incluía aun lo che parece más prosaico, San Pablo escribió también: ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Questa dottrina della Sacra Scrittura, che si trova, come sapete, nel cuore stesso dello spirito dell'Opus Dei, vi deve spingere a realizzare il vostro lavoro con perfezione, ad amare Dio e gli uomini facendo con amore le piccole cose della vostra giornata abituale, scoprendo quel qualcosa di divino che è nascosto nei particolari. Vengono a pennello, a questo proposito, i versi del poeta di Castiglia, pian pianino, con bella grafia, che fare le cose bene vale più che farle. Buena letra. El hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Os aseguro, hijos míos, vi assicuro, figli miei, che quando un cristiano compie con amore le attività quotidiane meno trascendenti, in esse trabocca la trascendenza di Dio. Per questo vi ho ripetuto, con ostinata insistenza, che la vocazione cristiana consiste nel trasformare in endecasillabi la prosa quotidiana. Il cielo e la terra, figli miei, sembra che si uniscano laggiù, sulla linea dell'orizzonte, e invece no. È nei vostri cuori che si fondono davvero, quando vivete santamente la vita ordinaria. Parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Vivir santamente la vita ordinaria. Vivere santamente la vita ordinaria, vi ho detto. E con queste parole mi riferisco a tutto il programma del vostro agire cristiano. Mettete dunque da parte i sogni, i falsi idealismi, le fantasticherie, tutto quell'atteggiamento che sono solito chiamare mistica del magari. Magari non mi fossi sposato. Magari non avessi questa professione, magari avessi più salute, magari fossi giovane, magari fossi vecchio. E attenetevi piuttosto, con sobrietà, alla realtà più materiale e immediata, perché è proprio lì che si trova il Signore. Guardate le mie mani e i miei piedi, dice Gesù risuscitato, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che ho io. Soy yo mismo. Palpademe y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Son muchos. Sono molti gli aspetti dell'ambiente secolare in cui vi muovete che vengono a essere illuminati partendo da queste verità. Pensate, per esempio, alla vostra azione di cittadini nella vita civile. Un uomo consapevole che il mondo, e non solo il tempio, e il luogo del suo incontro con Cristo, ama questo mondo, si sforza di raggiungere una buona preparazione intellettuale e professionale e va formando in piena libertà il proprio criterio sui problemi dell'ambiente in cui opera e di conseguenza prende le sue decisioni, che essendo decisioni di un cristiano, sono anche frutto di una riflessione personale, umilmente intesa a cogliere la volontà di Dio in questi particolari piccoli e grandi della vita. E toma in conseguenza sus propias decisiones, che por ser decisiones de un cristiano proceden además de una reflexión personal que intenta humildemente captar la voluntad de Dios en esos detalles pequeños y grandes de la vida. Pero a ese cristiano, ma a questo cristiano non viene mai in mente di credere o di dire che lui scende dal Tempio al mondo per rappresentare la Chiesa e che le sue scelte sono le soluzioni cattoliche di quei problemi. Questo non va, figli miei. Un atteggiamento del genere sarebbe clericalismo, cattolicesimo ufficiale, o come volete chiamarlo. In ogni caso, vuol dire violentare la natura delle cose. Dovete diffondere dappertutto una vera mentalità laicale che deve condurre a tre conclusioni. Es hacer violencia a la naturaleza de las cosas. Tenéis que difundir por todas partes una verdadera mentalidad laical que ha de llevar a tres conclusiones. A ser lo suficientemente honrados, a essere sufficientemente onesti da addossarsi personalmente il peso delle proprie responsabilità, a essere sufficientemente cristiani da rispettare i fratelli nella fede che propongono nelle materie opinabili soluzioni diverse da quelle che ciascuno di noi sostiene, a essere sufficientemente cattolici da non servirsi della Chiesa nostra madre immischiandola in partigianerie umane. Para no servirse de nuestra madre la Iglesia, mezclándola en banderías humanas. ¿Se ve claro? È evidente che in questo terreno, come in tutti, voi non potreste realizzare questo programma di vivere santamente la vita ordinaria se non fruiste di tutta la libertà che vi viene riconosciuta sia dalla Chiesa sia dalla vostra dignità di uomini e di donne creati a immagine di Dio. La libertà personale è essenziale nella vita cristiana, ma non dimenticate, figli miei, che io parlo sempre di una libertà responsabile. Pero no olvidéis, hijos míos, que hablo siempre de una libertà responsable. Interpretad, pues, mis palabras. Interpretate quindi le mie parole per quello che sono. Un appello all'esercizio, tutti i giorni e non solo nelle situazioni di emergenza, dei vostri diritti e all'esemplare compimento dei vostri doveri di cittadini, nella vita politica, nella vita economica, nella vita universitaria, nella vita professionale, addossandovi coraggiosamente tutte le conseguenze delle vostre libere decisioni, assumendo la responsabilità dell'indipendenza personale che vi spetta. E questa cristiana mentalità laicale vi consentirà di evitare ogni intolleranza e ogni fanatismo, ossia, per dirlo in modo positivo, vi farà convivere in pace con tutti i vostri concittadini, e favorire anche la convivenza nei diversi ordini della vita sociale. Lo diré de un modo positivo. Os hará convivir en paz con todos vuestros conciudadanos y fomentar también la convivencia en los diversos órdenes de la vida social. So che non c'è bisogno che vi ricordi quello che sto ripetendo da tanti anni. Questa dottrina di libertà civile, di convivenza e di comprensione è un elemento di primissimo piano nel messaggio che l'Opus Dei diffonde. C'è bisogno che ribadisca ancora una volta che gli uomini e le donne che vogliono servire Cristo Gesù nell'opera di Dio sono semplicemente dei cittadini uguali agli altri, che si sforzano di vivere con responsabilità seria, fino alle ultime conclusioni, la loro vocazione cristiana. Ciudadanos iguales a los demás, que se esfuerzan por vivir con seria responsabilidad hasta las últimas conclusiones su vocación cristiana? Nada distingue a mis hijos. Non c'è nulla che distingua i miei figli dagli altri membri della società civile. Invece, non hanno nulla in comune con i membri delle congregazioni religiose, salvo la fede. Io amo i religiosi e venero e ammiro le loro clausure, le loro attività apostoliche, la loro separazione dal mondo, il contemptus mundi, che sono altri segni di santità nella Chiesa. Ma il Signore non mi ha dato una vocazione religiosa e il desiderarla per me sarebbe un disordine. Nessuna autorità sulla terra mi potrà obbligare a essere un religioso, come nessuna autorità può costringermi a contrarre matrimonio. Sono un sacerdote secolare, un sacerdote di Cristo Gesù che ama appassionatamente il mondo. Come nessuna autorità può forzarmi a contrarre matrimonio. Soy sacerdote secular, sacerdote de Jesucristo, que ama apasionadamente el mundo. Quienes han seguido a Jesucristo, coloro che assieme a me, povero peccatore, hanno seguito Gesù Cristo, sono una piccola percentuale di sacerdoti che hanno esercitato in precedenza una professione o un mestiere laicale, un gran numero di sacerdoti secolari di molte diocesi del mondo che in tal modo rinsaldano la loro obbedienza e il loro amore ai rispettivi vescovi e l'efficacia del loro lavoro diocesano, sempre con le braccia aperte in croce per fare in modo che tutte le anime trovino posto nel loro cuore e che stanno come me nel bel mezzo della strada, nel mondo, e lo amano. E la grande folla di uomini e di donne, di nazioni diverse, di lingue diverse, di razze diverse, che vivono del loro lavoro professionale, sposati la maggior parte, celibi parecchi altri, che partecipano assieme ai loro concittadini al grave compito di rendere più umana e più giusta la società temporale, nella nobile lotta degli impegni quotidiani, con personale responsabilità, ripeto, assaporando assieme agli altri uomini, gomito a gomito, successi e insuccessi, sforzandosi di compiere i loro doveri e di esercitare i loro diritti sociali e civili. E tutto questo con naturalezza, come un qualsiasi cristiano consapevole, senza mentalità di gente eletta, fusi nella massa dei loro colleghi, mentre si impegnano a scoprire gli splendori divini riverberati nelle realtà più banali. Di esercitare i suoi diritti sociali e civici. Y todo con naturalidad, como cualquier cristiano consciente, sin mentalidades electos, fundidos en la masa de sus colegas, mientras procuran detectar los brillos divinos que reverberan en las realidades más vulgares. Anche le opere che l'Opus Dei promuove come istituzione hanno caratteristiche eminentemente secolari, non sono opere ecclesiastiche, non sono rivestite di nessuna rappresentanza ufficiale della sacra gerarchia della Chiesa, sono opere di promozione umana, culturale, sociale, realizzate da cittadini che si impegnano a illuminarle con le luci del Vangelo e a riscaldarle con l'amore di Cristo. Un dato vi aiuterà a comprenderlo. L'Opus Dei non ha né avrà mai come missione, per esempio, quella di dirigere dei seminari diocesani, nei quali i vescovi, istituiti dallo Spirito Santo, preparano i futuri sacerdoti. Donde los obispos, instituidos por el Espíritu Santo, preparan a sus futuros sacerdotes. Fomenta, en cambio, el Opus Dei. L'Opus Dei promuove invece centri di qualificazione per operai, di formazione professionale per contadini, di istruzione elementare, media e universitaria e tante e così diverse attività ancora in tutto il mondo, perché il suo slancio apostolico, come ebbe a scrivere molti anni or sono, è un mare senza sponde. Un mar sin orillas. Però come mi devo allargare questa materia? Ma perché dilungarmi su questo argomento quando la vostra stessa presenza qui è più eloquente di un lungo discorso? Voi, amici dell'Università di Navarra, siete parte di un popolo che è consapevole di essere impegnato nel progresso della società a cui appartiene. Il vostro cordiale incoraggiamento, la vostra preghiera, il vostro sacrificio e i vostri contributi non scorrono attraverso i canali del confessionalismo cattolico. Nel dare la vostra cooperazione, voi siete una chiara testimonianza di retta coscienza civica, sollecita del bene comune temporale, e date prova che una università può scaturire dalle energie del popolo ed essere sostenuta dal popolo. Conciencia ciudadana preoccupada del bien común temporal. Atestiguáis que una universidad puede nacer de las energías del pueblo y ser sostenida por el pueblo. Una vez más quiero en esta ocasión. Una volta ancora in questa occasione desidero manifestare la mia riconoscenza per la collaborazione che prestano alla nostra università, la mia nobilissima città di Pamplona, la grande e forte regione navarrese, gli amici provenienti da ogni parte della Spagna e infine, lo dico con particolare commozione, i non spagnoli e persino i non cattolici e i non cristiani che hanno compreso e ne danno prova con i fatti l'intenzione e lo spirito di questa impresa. Tutti hanno contribuito a far sì che l'università sia un faro sempre più luminoso di libertà civile, di preparazione intellettuale, di emulazione professionale. È un fattore di stimolo per tutta l'istruzione universitaria. Il vostro generoso sacrificio è il supporto di quest'opera universale tutta tesa allo sviluppo delle scienze umane, alla promozione sociale, alla pedagogia della fede. La promozione sociale, la pedagogia della fede. Lo che acabo di segnalare. Ciò che vi ho appena detto è stato ben compreso dal popolo di Navarra, che riconosce pure nella sua università quel fattore di promozione economica per la regione e soprattutto di promozione sociale che ha consentito a tanti dei suoi figli un accesso alle professioni intellettuali, altrimenti arduo, se non addirittura impossibile. È stato indubbiamente l'aver capito il ruolo dell'università nella vita stessa della regione a spingere la Navarra ad appoggiarla fin dagli inizi, appoggio destinato senz'altro a diventare ogni giorno più vasto ed entusiasta. Appoggio che Navarra le dispensò desde un principio. Appoggio che sin duda avrà di essere de día en día más amplio y entusiasta. Sigo manteniendo la esperanza. Io continuo a nutrire la speranza che arriverà il momento, perché risponde a criteri di giustizia e alla realtà vigente in tante nazioni, in cui lo Stato spagnolo contribuirà, per quanto lo concerne, ad alleggerire l'onere di un'attività che non persegue alcun genere di profitto privato, ma è invece totalmente votata al servizio della società e a operare efficacemente per la prosperità attuale e futura della nazione. Por la prosperidad presente y futura de la nación. Y ahora, hijas e hijos. E adesso, figlie e figli miei, permettetemi di soffermarmi su di un altro aspetto particolarmente toccante della vita di tutti i giorni. Mi riferisco all'amore umano, l'amore autentico e puro fra un uomo e una donna, il fidanzamento, il matrimonio. Mi preme di dire una volta ancora che questo santo amore umano non è qualcosa di semplicemente consentito o tollerato accanto alle vere attività dello spirito, come potrebbe sottintendersi in quei falsi spiritualismi cui alludevo dianzi. Sono 40 anni che sto predicando a viva voce per iscritto tutto il contrario e finalmente cominciano a comprenderlo quelli che non lo capivano. Todo lo contrario desde hace 40 anni. Y ya lo van entendiendo los que no lo comprendían. El amor que conduce al matrimonio y a la familia. L'amore che conduce al matrimonio e alla famiglia può essere anch'esso un cammino divino, vocazionale, meraviglioso, una strada per la completa dedicazione al nostro Dio. Fate le cose con perfezione, vi ricordavo. Mettete amore nelle piccole attività della giornata. Scoprite, insisto ancora, quel qualcosa di divino nascosto nei particolari. Tutta questa dottrina ha speciale applicazione nello spazio vitale in cui si muove l'amore umano. Tutta questa dottrina encuentra special lugar en el espacio vital en el que se encuadra el amor humano. Ya lo sabéis. Lo sapete bene, professori, alunni e tutti voi che dedicate la vostra opera all'Università di Navarra. Io ho affidato i vostri affetti più cari a Santa Maria, Madre del Bell'Amore. L'edicola con la sua statua l'avete qui. L'abbiamo costruita con devozione in mezzo al campus universitario perché accolga le vostre preghiere e l'offerta di questo meraviglioso e puro amore che lei benedice. Y la oblación de ese estupendo y limpio amor que ella bendice. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che avete ricevuto da Dio e che non appartenete quindi a voi stessi? Quante volte, davanti alla statua della Vergine Santa, Madre del Bell'Amore, voi risponderete con un'affermazione gioiosa a questa domanda dell'Apostolo? Sì, direte, lo sappiamo, Vergine Madre di Dio. E con tuo efficace aiuto vogliamo anche viverlo. Y queremos vivirlo con tu ayuda poderosa, oh Virgen Madre de Dios. La oración contemplativa. La preghiera contemplativa sgorgherà dal vostro cuore ogni volta che mediterete questa grandiosa verità. Una cosa così materiale come il mio corpo è stata prescelta dallo Spirito Santo per stabilirvi la sua dimora. Io non appartengo più a me stesso, il mio corpo è la mia anima, tutto intero il mio essere, sono di Dio. E questa preghiera sarà feconda di risultati pratici, derivanti dalla grande conseguenza che lo stesso Apostolo suggerisce. Glorificate Dio nel vostro corpo. D'altra parte, non potete ignorare che soltanto fra quelli che comprendono e valutano in tutta la loro profondità le considerazioni che abbiamo fatto sull'amore umano, può sorgere la comprensione ineffabile di cui parla Gesù, quella che è dono squisitamente divino e spinge a dare per intero il corpo e l'anima al Signore, offrendogli il cuore indiviso, senza la mediazione dell'amore terreno. E che impulsa a entregare il corpo e l'anima al Signore. A ofrecerle el corazón indiviso sin la mediación del amor terreno. Devo terminar ya. Ormai devo concludere, figli miei. Vi dicevo all'inizio che le mie parole volevano annunciarvi qualcosa della grandezza e della misericordia di Dio. Ritengo di averlo fatto dicendovi di vivere santamente la vita ordinaria, perché una vita santa nel mezzo della realtà temporale. Una vita senza risonanza, semplice, verace, non è forse oggi la manifestazione più commovente delle Magnalia Dei, delle mirabili prove di misericordia che Dio ci ha dato sempre e che sempre continua a darci per salvare il mondo? La più commovedora delle Magnalia Dei, delle portentose misericordie che Dio ha esercitato sempre e non deja di esercitare per salvare il mondo? Adesso vi chiedo, con le parole del salmista, di unirvi alla mia preghiera e alla mia lode. Magnificate Dominum Mecum et extollamus nomen eius simul. Magnificate con me il Signore ed esaltiamo tutti assieme il suo nome. In altri termini, figli miei, viviamo di fede. Prendiamo lo scudo della fede, l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Così ci sprona l'Apostolo San Paolo nell'Epistola agli Efesini, di cui un momento fa veniva data lettura liturgica. Fede, una virtù di cui tanto abbiamo bisogno noi cristiani e in modo tutto speciale in questo anno della fede promulgato dal nostro amatissimo Santo Padre, il Papa Paolo VI, perché senza fede viene a mancare la base stessa per la santificazione della vita di tutti i giorni. Fondamento mismo per la santificazione della vita ordinaria. Fede viva in questi momenti. Fede viva in questo momento perché ci accostiamo al Mysterium Fidei, la Sacra Eucaristia, perché stiamo per prendere parte a questa Pasqua del Signore che riassume e realizza le misericordie di Dio verso gli uomini. Fede, figli miei, per professare che fra pochi istanti su quest'ara si rinnoverà l'opera della nostra redenzione. Fede, per assaporare il credo e avvertire intorno a quest'altare e in questa assemblea la presenza di Cristo, che ci rende cor unum et anima una, un solo cuore e una sola anima, e ci fa diventare famiglia, chiesa, una, santa, cattolica, apostolica e romana, che per noi è come dire universale. In Iglesia, una, santa, cattolica, apostolica e romana, che per noi è tanto come universale. Fede, infine, figlie e figli carissimi, per dimostrare al mondo che queste non sono cerimonie e parole, ma realtà divina, offrendo agli uomini la testimonianza di una vita ordinaria, santificata nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo e di Santa Maria. E del Hijo, e dello Spirito Santo e di Santa Maria.